Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti i gastronauti. E prima di parlare di vino industriale o di vino naturale, io devo ringraziare tutti i gastronauti, tutti coloro che mi hanno votato nel sondaggio e che mi ha portato appunto in vetta a questo sondaggio di Italia a Tavola. Ma allo stesso tempo io devo rendere anche, come si dice, l'onore delle armi a chi ha combattuto fino in fondo per questo primo posto appunto nel sondaggio, che sono due colleghi di Decanter, Fede e Tinto. Buongiorno Fede, buongiorno Tinto. Buongiorno, caro vincitore, a questo punto ti devo dare del lei da qui in avanti, visto che sei battuto alla fine. Addirittura d'arrivo ci hai distaccato, vuol dire che la tua comunità ha risposto meglio della nostra. Siamo un po' arrabbiati con i nostri ascoltatori. E beh, ci sarà il prossimo anno, no? Io mi ritiro il prossimo anno, quindi sicuramente la radio vincerà anche il prossimo anno. Caro Paolo, se ci cedi tutti i tuoi abbiamo già vinto mani basse, cioè possiamo veramente anche non far la fatica, visto che ne hai avuto tantissimi di voti. Sì, quello che hai detto è giusto, la radio, ed è anche singolare, perché le nostre trasmissioni sono una l'alter ego dell'altra, in pratica. Tu fai l'approfondimento, si entra nel dettaglio, si conosce tutto quanto, noi facciamo l'intrattenimento, la parte giocosa, e allora se un programma di approfondimento è un programma di intrattenimento, sono ai primi posti della classifica, vuol dire che la radio è il mezzo ufficiale dell'enogastronomia. Bene, poi prima o poi faremo una tournée, così fonderemo magari i due motivi delle rispettive trasmissioni. Certo. Bene, Fede e Tinto, io vi saluto, vi ringrazio di essere intervenuti e al prossimo anno, quindi, con voi. Bene. Senti questo rumore qua sotto, lo senti? Sì, sì. Siamo al SIGEF di Rimini e c'è il campionato mondiale di pasticceria femminile. E anche in questo caso, altro valore della radio, riesce a diffondere rumori, sensazioni e sapori come nessun altro. Quindi viva la radio sempre e viva Davide Paolini, il gastronauta che ha vinto. Bene, grazie Fede, grazie Tinto e a presto, vi saluto caramente. Bene, torniamo all'argomento della puntata. Ho detto vini industriali e vini naturali, ma questa definizione sono definizioni fasulle, sono definizioni che non hanno ragione di essere perché non sono, per così dire, documentate da un qualcosa, oppure ormai sono entrate nel linguaggio comune e si usano. Bene, io la prima, cominciamo questo giro, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Poi vi ricordo anche il sito gastronauta.it, perché stamattina ricorrerò molto, perché ho avuto moltissimi interventi secondo me molto ma molto intelligenti e approfonditi. Ora andiamo dal presidente dell'AIS, Antonello Maietta. Perché? Perché voglio chiedere a lui, come AIS, come si pone l'AIS di fronte a queste definizioni. Buongiorno Antonello. Eccomi Davide, ciao, buona giornata a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Ciao. Pronto? Sì, come ti poni di fronte a queste definizioni, vino industriale o vino naturale? Ma guarda, intanto, siccome hai detto bene, intanto occorre trovarsi d'accordo sul significato di questa parola, no? Perché poi dopo, concettualmente, se ci pensiamo, il vino poi dopo di fatto non è di per sé un prodotto naturale, no? Il prodotto è una trasformazione di qualche cosa, però il prodotto naturale della trasformazione dell'uva è l'aceto, non è il vino. Il vino è un prodotto dell'intelligenza dell'uomo, della cultura dell'uomo. Quindi già detto questo, è chiaro che oggi è condivisibile per noi come Associazione Italiana Sommelier che ci sia una presa di coscienza da parte del mondo produttivo di un profilo etico di produzione, quindi un profilo etico legato anche alla produzione del vino. Poi dopo è chiaro che a noi interessa fondamentalmente un concetto che è quello legato alla qualità, che un vino sia buono e poi se è prodotto con un concetto etico sicuramente. Tanto vale. Senti Antonello, io ho l'impressione, sì, però molte volte quando viene usato vino industriale che sia usato in maniera molto negativa, dispregiativa. Certo, hai ragione, infatti il concetto è questo. Se passa questo, se si parla troppo senza chiarire sul concetto, sui termini di vino naturale, potrebbe passare questo messaggio che fino adesso cosa abbiamo bevuto. Marco da Sondi, un radioascoltatore. Marco. No, volevo intervenire, questo è un interessantissimo dibattito sul discorso del vino naturale e vino industriale. Secondo me dovrebbe esserci solo vino naturale, nel senso che il vino è fatto naturalmente, nel senso che viene fatto dall'uva e poi con la fermentazione otteniamo il vino. Purtroppo sono intervenuti tutti questi anni tante tecnologie, tante situazioni, tanti elementi che vanno a condizionare questo fenomeno naturale che che abbiamo grazie alla fermentazione dell'uva. Io direi che bisogna tendere verso proprio il concetto di naturale, ma in tutti gli ambiti, anche per quanto riguarda l'ambito più industriale, cioè cercare sempre di essere attenti al vigneto, quindi a fare il vino prima di tutto sul vigneto e usare meno elementi esterni possibili per arrivare a un risultato di qualità e identità più vera possibile. Bene, Marco, grazie del tuo intervento. Sentiamo anche Giovanni dalla provincia di Vicenza. Ciao. Giovanni, sì, prego Giovanni. Sì, volevo solo dire una cosa, vini naturali o non vini naturali. Penso l'importante è che il vino sia buono. Io ho vini naturali anche nella mia cantina, i vini non naturali, se il professionista è serio, i vini sono buoni. Quindi lei dice dipende tutto dalla scelta e quindi... Che abbiamo, possiamo fare dei vini biologici ad esempio e in cantina lavorare con metodi tradizionali che usano anche le altre cantine. Dunque io penso che il vino deve essere solo buono, questo è il concetto, e questo arriva bevendo vino. Sì, d'accordo, cioè qui però c'è tutto un discorso di filiera, bisogna partire dall'uva, bisogna partire da tanti aspetti, cioè per definire poi un vino buono, perché magari molte volte semplicemente berlo si possono sbagliare anche delle impressioni. Comunque giustissimo il discorso di mettere l'uno e l'altro, e c'è il vino buono e c'è anche il vino cattivo dell'una e dell'altra, diciamo, chiamiamole così, categorie molto fantasiose a cui abbiamo dato. Ma ora abbiamo con noi in linea Elena Pantaleoni dell'azienda Vinicola La Stoppa, che è una, diciamo, delle esponenti sicuramente del vino, io metto naturale tra virgolette, poi sentiremo anche con lei, ma voglio leggere, appunto, visto che Elena è in linea, poi anche altri intervenuti saranno in linea, un intervento sul sito di Giampaolo Paglia, che è un produttore di vino di Poggio Argentiera, che secondo me dà un po' il senso anche di questa, diciamo, di cosa dovrebbe essere questa discussione. Dice: mentre il concetto di vino naturale è per sua natura destinato a rimanere vago, credo che al contrario sia possibile definire abbastanza chiaramente un vino industriale come un vino studiato a tavolino per avere determinate caratteristiche sempre uguali da vendemmia a vendemmia, dove gli effetti del territorio sono deliberatamente messi in secondo piano dall'esigenza di reperire prodotto da ampie zone e in grandi volumi. Io credo che questo possa essere un po' la base della discussione. Buongiorno Elena. Ciao Davide, buongiorno. Allora, sei d'accordo che è vago il termine naturale? Ma sono d'accordo con quello che dice Giampaolo proprio nell'approccio, no? Che l'approccio industriale segue più le regole del mercato, per cui il territorio passa assolutamente in secondo piano. Invece l'approccio naturale è proprio quello che cerca di esaltare al massimo le caratteristiche del luogo di provenienza, della vendemmia e in terza battuta del vitigno. Per cui naturale è una conseguenza di non voler intervenire cambiando col proprio gusto o seguendo le regole del mercato, ma cercando di esaltare appunto le caratteristiche del territorio. Per cui non è vago, il naturale è questo, no? Quando conosci la tua azienda, conosci le vigne, conosci le potenzialità del tuo posto, cercare di esaltarlo. Un conto poi è la viticoltura naturale, cioè biologico-biodinamica, che questa io credo dovrebbe essere una responsabilità di tutti coloro che lavorano in agricoltura, per un discorso oltre che di rispetto dell'ambiente, anche di tirare fuori per tanto tempo appunto ciò che di meglio ti può dare la natura. In cantina poi appunto puoi intervenire meno, cercando di tirar fuori le caratteristiche e le espressioni vere di un territorio. Questo secondo me è la differenza sostanziale. Poi non c'entrano i numeri, nel senso che uno può avere un approccio industriale anche se è molto piccolo, e ugualmente uno, anche se fa tante bottiglie, può avere un approccio più meno interventista, insomma, più naturale. Bene, rimani con noi. Elena, ora sentiamo un radioascoltatore, Claudio dalla provincia di Cuneo. Buongiorno Claudio. Salve Paolini. Salve Paolini, io sono un produttore di vino, ho fatto il percorso biologico biodinamico perché mi ero un po', sono enologo, mi sono un po' stufato del vino appunto industriale, il vino in cui si azzerava il terroir, si azzerava anche la stagionalità, si azzeravano tutte le cose in funzione di un prodotto standardizzato che piacesse al mercato e poi segreto al mercato. e quindi trovo che sì, industriale è quello, sono pienamente d'accordo con la definizione che lei ha dato prima, in cui l'industrializzazione porta all'azzeramento, diciamo, delle caratteristiche peculiari dei territori. No, io non l'ho dato io questo, l'ha dato Gianpaolo Paglia, che ho letto un pezzo. Bene, Claudio, rimanga in ascolto, magari potrà anche rintervenire appunto sul discorso dei vini naturali. E ora ho in linea con noi Antonio Santarelli di Casale del Giglio. Bene, Antonio Santarelli, diciamo, l'ho chiamato anche perché non sono riuscito a chiamarlo due settimane fa nella trasmissione con il regista Nossiter, perché lui era molto tirato, diciamo, in ballo sul discorso vini industriali. Allora, prima però, siccome Antonio Santarelli si è collegato solo ora, voglio rileggere quello che ha scritto Gianpaolo Paglia, che dice: il vino naturale è per sua natura destinato rimanere vago e credo che al contrario sia possibile definire abbastanza certamente chiaramente un vino industriale come vino studiato a tavolino per avere determinate caratteristiche sempre uguali da vendemmia a vendemmia, dove gli effetti del territorio sono deliberatamente messi in secondo piano dall'esigenza di reperire prodotto da ampia zona in grandi volumi. Siccome avevo letto la lettera che Santarelli ha scritto a Nossiter e lui, diciamo, era di tutt'altro parere, chiedo a lui appunto se si può definire un vino industriale e se queste sono, diciamo, le definizioni giuste. Buongiorno Santarelli. Allora, buongiorno a tutti, scusate, io sono all'estero quindi non ho potuto seguire la trasmissione, grazie per avermi riletto appunto questo intervento, ma non so se abbia molto senso fare tutte queste distinzioni, perché si tende un po' ad appiccicare delle etichette come i buoni e i cattivi, per cui chi fa il vino industriale appunto rulla, diciamo, tutto e impedisce ovviamente la tipicità, la regionalità, la territorialità, e invece chi fa invece appunto vini biologici e biodinamici assumerebbe appunto un'immagine tutto diversa. Io penso che oggi gli standard appunto sanitari siano garantiti da tutti, e questa è la prima cosa, perché io mi ero molto dispiaciuto sinceramente per le espressioni virulente, diciamo, di Nossiter quando parlava di vini tossici, che francamente è una definizione che oltre che offensiva, diciamo, non dà alcun contributo informativo a chi ci ascolta, quindi abuseremmo del tempo di chi gentilmente ci sta seguendo, e quindi diciamo c'è secondo me da fare una valutazione un po' più ampia e di valutare la sostenibilità, non solo quella ambientale ma anche quella economica e qualitativa, perché a volte succede, proprio sperimentando, facendo vini così naturali, biodinamici eccetera, che a volte ci sono problemi perché ci sono, non so, attacchi fungini, malattie eccetera, che con certi metodi ancora non si riesce a contrastare, quindi questo potrebbe, sempre un'ipotesi, danneggiare il profilo qualitativo. E poi c'è un problema economico, perché il contadino deve vivere di quello che produce, i prezzi in agricoltura sono sempre dannatamente bassi, il vino forse si è salvato, ma se pensiamo agli altri cari colleghi, diciamo, sono sempre in difficoltà, per cui se sbaglio un'annata ci metti 10 anni a recuperarla, di conseguenza bisogna stare anche molto attenti, diciamo, a non aver perdite, quindi se si riuscisse con un intento veramente costruttivo, dando ampia disponibilità anche da parte della nostra azienda, noi sperimentiamo ormai da 30 anni, è stato il nostro credo, quello che ci ha permesso appunto di così portare su una viticoltura che viene al momento apprezzata, devo dire, rispetto a quello che si faceva prima, diciamo, se ci mettiamo tutti insieme, facciamo quasi un gruppo, no, di lavoro per riuscire a dare anche all'ascoltatore un'informazione veramente legata alla realtà, a quello che veramente è, allora a questo punto l'evoluzione sicuramente futura è in quella direzione, quindi vini biologici e vini biodinamici, e anche noi nel nostro piccolo non lo diciamo perché non ne vogliamo fare neanche un vanto, poi vi faccio un esempio di colleghi appunto stranieri, appunto dicevo potremmo veramente raggiungere degli obiettivi, ma questi si raggiungono solo se si contemplano anche altre grandezze che, come dicevo, sono quelle economiche appunto appunto quelle della qualità proprio intrinseca del prodotto, perché ecco, poi un vino che non piace appunto. Bene, Santarelli, rimanga con noi, sentiamo Riccardo da Pordenone, un radioascoltatore. Buongiorno Riccardo. Sì, buongiorno a voi. Io volevo esprimere un concetto abbastanza semplice forse, Bisogna innanzitutto stabilire se c'è un numero per dichiarare una cantina industriale, nel senso, in Australia ci sono numerose cantine certificate biodinamiche con il marchio biodinamico che producono milioni di bottiglie. Allora già in quel momento lì noi andiamo a intersecare il naturale con l'industriale. Forse quello che noi definiamo naturale vuol dire riuscire a riconoscere un territorio, una territorialità. Il concetto di industriale forse è una segmentazione di mercato a cui noi vogliamo portare i nostri vini, nel senso che se produciamo, dal mio punto di vista, Merlot, Petit Verdot, Syrah, nelle zone come Lazio, Umbria, le Marche, forse cerchiamo un segmento di mercato industriale piuttosto che naturale. Se invece riusciamo a produrre anche con, non so, 200.000 bottiglie, 300.000 bottiglie, che sono già un numero sostanzioso, dei vitigni autoctoni che vanno in un mercato limitato alla nostra regione, alla nostra nazione, diciamo, riuscendo a esprimere territorialità, già lì si parla di vino naturale, okay, dal punto di vista. Bene, grazie Riccardo. Voglio chiedere a Elena, Pantaleoni se così è d'accordo con questa, con questo intervento, diciamo, australiano. Ma sì, ripeto, cioè, un conto è la viticoltura, no? Allora, la viticoltura, che sia biologica o biodinamica, ripeto, credo che sia una responsabilità di tutti quelli che lavorano in agricoltura. E questa è una cosa, no? In cantina poi si può decidere di fare dei vini più rivolti al mercato, che non vuol dire che il vino naturale non sia rivolto al mercato, per l'amor di Dio, non sto dicendo questo, però è l'approccio, no? Che uno dice, oggi il mercato vuole vini, che ne so, spumanti, bene, facciamo metodo classico, tutti i vini a qualsiasi latitudine, oppure vuole i vini bassi di gradazione piuttosto che, no. Allora, e poi chiaramente, cioè, l'industria enologica negli ultimi 50 anni ha fatto dei passi da gigante, no? Per cui ci permette di fare vini tutti uguali ogni anno. Se una Barbera, io lavoro con Barbera, è troppo acida per il mercato, si può disacidificare, ma questo non vuol dire rispettare né il vitigno né il territorio e tantomeno l'annata, no? Per cui ci sono vini, e quella è la cosa bella, diciamo, dei vini naturali, che poi capisco che sulle parole si può discutere, no? Perché naturale non vuol dire niente, come anche industriale è un'accezione che io non ritengo negativa, però effettivamente nel vino è un po' così, no? Certo, lascia il tempo che trova, insomma. Sì, però ecco, allora possiamo discutere sulla terminologia, però il concetto è molto semplice e credo che sì, definito, facendo, certo, un esempio, uscendo dal mio territorio, andando in un altro territorio con più storicità, cioè il Barolo nel mondo è conosciuto come il Barolo classico, fatto in botte grande, no? Che può durare tanto nel tempo. La diciamo quella new wave che c'è stata qualche anno fa dei Baroli modernisti, i vini dei falegnami, eccetera, secondo me ha snaturato un po', e infatti ha avuto un periodo importantissimo, no? Anche per la conoscenza del Barolo in giro per il mondo, eccetera, però oggi si sta tornando verso una cosa, perché, certo, perché la gente nel mondo vuole il Barolo di un certo tipo, che lo riconosce, è fatto in un certo tipo. Poi si è usato e si è abusato anche della tecnica. Io parlo sempre di come faccio i vini, perché li faccio e che caratteristiche ha il mio posto. Il fatto di essere naturale, di usare più o meno solforosa, di non usare lieviti selezionati, eccetera, tutto questo riguarda una metodologia che è meno interessante, secondo me, no? Del, certo, risultato. Cioè, poi è chiaro che quello che dà fastidio, due cose mi premeva dire, Davide. Una, che nessuno vuole fare dare dei giudizi e fare delle categorie. Non ci sono i buoni e i cattivi. Ci sono quelli che lavorano in un modo e quelli che lavorano in un altro. Ma non è che uno sia migliore dell'altro. Quello che è importante è che il consumatore sappia o abbia gli strumenti per poterli distinguere. Grazie Elena Pantaleoni. Ho in linea con noi ora Maurizio Gili, che è un direttore, un agronomo, soprattutto un direttore della rivista Mille Vigne. Sul sito è intervenuto sul dibattito e ha scritto: il termine vino naturale è ormai molto utilizzato, ma non è stato definito il significato in modo univoco. È così, Maurizio? Sì, sicuramente sì. Anzi, se dovessi fare proprio il guastatore, direi che il vino, essendo un prodotto che non esiste in natura, ma un prodotto dell'uomo, il vino naturale non esiste. In realtà, però, c'è ormai un'accettazione comune che questo termine sta a indicare un vino ottenuto normalmente da un vigneto di agricoltura biologica e da un'enologia, diciamo così, poco interventista. Questo in linea generale, però una definizione chiara in realtà non c'è, condivisa. Ma tu dici che inoltre, cioè, i produttori, diciamo, naturali hanno un'idiosincrasia verso la burocrazia, è così? Beh, non solo quelli di vini naturali, direi i produttori in generale, quelli forse di vino naturale ancora un po' più degli altri. Perché? Perché questo? Ma perché sicuramente la burocrazia è un grosso problema di tutte le imprese, e quelle piccole forse più di quelli grandi, perché non hanno personale dedicato a questo, ma sicuramente il fatto di, per esempio, di definire qual è un protocollo di un vino naturale quasi presuppone che poi ci sia un certificatore esterno che attesta che è stato rispettato questo protocollo. C'è comprensibilmente una, così diciamo, la paura di entrare dentro questo meccanismo. Okay. Ecco. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, per chi volesse intervenire su questo, diciamo, su questo dibattito. Allora, vediamo ora con, diciamo, il presidente di una federazione che, diciamo, non ci sono equivoci, perché è la presidente Federazione Italiana Industriali del Vino. Quindi credo che più chiaro così. Buongiorno a Lamberto Vallarino Gancia. Buongiorno, ciao Davide. Lamberto, ma quando, appunto, questa definizione, cosa, cioè la federazione degli industriali, quindi cosa sono gli industriali del vino, cosa producono? No, ma scusa, prima di tutto c'è da dire che non esiste una norma che definisce vini naturali o no, cioè tutto, c'è una legge ben specifica che definisce quello che è il vino, ci sono disciplinari molto, molto ferri e rigidi sulle varie denominazioni. Noi abbiamo più di 600 tra DOC, DOCG, IGT che definiscono quelli che sono i vini. Si è creato tutto un mondo di vini naturali, vini biologici, eccetera, ma pensate che non c'è ancora oggi una norma europea che definisca un vino biologico. Di fatto non esiste un vino biologico, esiste un vino fatto con uve biologico, a coltivazione biologica, no? Quindi io condivido quello che l'enotecari ha detto. Oggi bisogna stare molto attenti a dare giudizi e fare sperequazioni su quello che è il vino, no? Naturale o non naturale o industriale, eccetera. Il vino di fatto deriva dall'uva, che è un prodotto naturale. Poi ci sono alcuni produttori che cercano di usare meno interventi chimici, da cui il vino a coltivazione biologica, e ci sono alcuni che stanno cercando di in cantina usare meno solforosa, con risultati abbastanza scarsi, perché poi i vini senza l'utilizzo della solforosa purtroppo si ossidano e diventano imbevibili rispetto a qualche vino che magicamente invece riesce a maturare, perché l'uva era molto protetta, molto sana, in cantina c'aveva già una protezione, quindi si può usare meno solforosa. Vi posso confermare che a livello europeo, io sono anche presidente di tutte le federvini europee, stiamo proprio studiando e lavorando con il commissario europeo su quello che può essere una definizione di un vino biologico, e qui ci sono varie visioni differenti tra tutti i paesi della comunità, soprattutto a grande produzione come la Francia, l'Italia, la Germania e la Spagna, dove ci sono visioni differenti se ridurre la percentuale di solforosa per poterlo chiamare vino biologico. Considerate anche che c'è il rischio che lo stesso vino a coltivazione di uva biologica possa essere bandito se non si trova entro giugno di quest'anno una soluzione a quello che può essere la definizione di un vino biologico. Quindi se non si trova l'accordo, bene, mi sembra che in sede comunitaria succedono molto spesso queste cose e poi si hanno dei disastri. Sentiamo Giovanni dalla provincia di Terni, un radioascoltatore. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Davide, sono cliente, diciamo, sono ristoratore, e sul terreno mi sono reso conto che cosa significa un vino fatto in una certa maniera e in un'altra maniera. Nel senso, provando a somministrare prodotti miei, insomma, del mio orto, della mia campagna, mettere un vino che strutturalmente sai, quei vini potenti, quei vini insomma che adesso diciamo intervento del legno o che altro, cozza un po' col mio mangiare estremamente saporito, estremamente naturale. Credo la definizione sia questa, insomma, essenzialmente di vino naturale. Quando troviamo un gusto interessante nel mangiare, dobbiamo per forza avere un vino che non va a sovraffare il discorso del mangiare, credo. Grazie Giovanni, abbiamo con noi il presidente dei Vinnatur, quello che ha portato avanti diciamo molto questo discorso dei vini, tra virgolette io lo dico naturali, che è Angiolino Maule. Buongiorno Angiolino. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Allora, ti voglio chiedere subito, secondo te è giusto che continuiamo a usare naturale o cerchiamo, diciamo, altre definizioni, anche voi come associazioni, di cercare, come posso dire, una via anche unitaria di produzione di questi vini? Sai Davide, come sai, io non sono un uomo di cultura, ma sono un uomo di campagna. No, sì che vedo, resto male leggendo tutto quello che viaggia in rete di queste affermazioni, di questi intellettuali che dicono che la parola convenzionale, che la parola naturale, che la parola naturale non è appropriata. Io dico soltanto, dobbiamo metterci in testa di fare vini da territorio e non vini da chimica o troppo da uomo. È vero, come dice Maurizio Gili, che il vino è frutto anche dell'uomo, però deve dominare nel gusto di un vino, deve dominare il gusto del terroir, cosa che del territorio, non terroir, che è cosa che l'uomo di questi anni 2010 non valuta mai. Non abbiamo mai sentito parlare di terreno, no? In questa trasmissione tua. Sì che le affermazioni che ha fatto tutte le persone che sono intervenute non sono assolutamente d'accordo su questo. Certo non bastano 5 minuti per spiegare il tutto, certo, ma però ti posso garantire che tramite la ricerca con i microbiologi di questi anni qua stiamo facendo vini senza la chimica, senza che siano corretti, anche bevibili. Sì che, per far chiarezza, vini a territorio senza la chimica. Bene, Angiolino rimane con noi. Abbiamo con noi anche Donato Lanati, che è non solo docente universitario di tecnologia enologica ma anche enologo. E Donato, che non so, spero che abbia ascoltato magari gli interventi, voglio chiedere anche lui un suo parere: industriali, naturali o bisogna cercare definizioni nuove, strade nuove? Ciao Davide, comunque la trasmissione è decisamente stimolante, dall'altra parte ha dimostrato che per stare in cima alle classifiche occorre produrre dei temi intelligenti e come produttori devono produrre dei vini di qualità. Ho ascoltato interessantissimo quello che hanno detto tutti. Se un vino non è fatto con la chimica ma deriva dall'uva, ovviamente secondo me è naturale, anche quello industriale. Farei un'altra divisione. Definirei un vino artigianale quello fatto in modo più semplice, in modo meno interventistico, come ha detto la signora Pantaleoni. D'altra parte, invece, quello in vino industriale è quello ottenuto con la razionalizzazione di un processo, che comunque deriva sempre dalla tradizione. Ovviamente la realtà qui è composita, perché ci sono chateau che fanno di una sola varietà 500.000 bottiglie buone ed altre aziende più artigianali che fanno dei vini meno convincenti. Certamente il problema non è solo quello della quantità, è difficile capire una linea di separazione. Quando si fanno molte quantità ovviamente si perde, proprio quello che ha detto Maule, il concetto di territorialità, che è il valore aggiunto delle aziende che fanno vini in un modo, diciamo, tra virgolette artigianale, che poi sono studiatissimi anche quelli, perché la parola che ha detto Maule è fondamentale, è anche ricerca. È da 40 anni che noi abbiamo degli enologi in cantina, 200 i francesi, e ovviamente la ricerca ci ha permesso di capire quali sono dei processi. Quale può essere il problema di un vino prodotto in grande quantità? Ovviamente lì ci si pone in un'altra logica, perché quando si fanno grandi investimenti si vuole arrivare anche a dei grandi profitti, che diventano a un certo punto le grandi aziende anaelastici. E lì c'è il pericolo di poter far violenza alla natura in vigna e in cantina. Invece il vigneto deve rimanere il luogo in cui c'è la possibilità di mantenere sano un territorio, che serve sia al produttore ma che a tutti noi. Ovviamente su questi vini prodotti in grande quantità certamente sono più controllati. L'azienda che produce molti vini non si può permettere di mandare in giro bottiglie che abbiano fondo, che abbiano qualche cosa dentro, non funziona. E questo è un momento in cui il produttore deve assumere tutta la responsabilità del controllo, non sono gli organi ufficiali che fanno i controlli, ma è proprio il produttore che deve garantire la massima genuinità, come ha detto Maietta. Oggi comunque ritengo che il successo sia dovuto al marchio, il marchio di cui come lavora un'azienda, infatti vende il marchio che riesce a dare fiducia, sia che sia un grande produttore, cioè che un produttore che produca quantità, oppure un prodotto in piccola quantità. Ovviamente quando si vede la cattedrale della cantina con le vasche da 500 ettolitri, il concetto di valore aggiunto della territorialità è perduto, perché non si può esprimere il gusto e il profumo di un vigneto che magari è un ettaro e mezzo. E allora ci si ispira, come il nuovo mondo, al concetto di varietà. Infatti i vini prodotti in grandissime quantità non possono altro che riferirsi alla varietà, Cabernet, Merlot, Barbera o Cortese o Moscato, quello che si vuole. Ecco, noi non dobbiamo perdere comunque il concetto del Made in Italy, che la nostra forza, certo, è la vera biodiversità. Specialmente chi produce vino deve capire che deve mantenere un territorio che è veramente il luogo in cui noi facciamo la sfida con il mondo. Bene, grazie Donato, e devo dire che veramente in questo momento il Made in Italy deve essere rafforzato, non indebolito, con diciamo quello che sta succedendo ultimamente sulla coppia dei marchi e via di seguito, come abbiamo letto negli ultimi giorni. Sentiamo Marco da Verona, radioascoltatore. Un minuto, 30 secondi Marco, mi raccomando, veloce perché ho pochi minuti. Buongiorno e grazie, saluti a tutti. Sono Marco Tevaldi, sono un enologo e mi occupo da 25 anni di tecnologia enologica, sì, quindi ho un certo titolo in questa materia. Innanzitutto quoto totalmente, mi associo a quello che ha detto il dottor Lanati, che mi sembra altamente condivisibile, una fotografia realistica. Io personalmente volevo aggiungere questo, riprendendo il concetto di genuinità di cui ha parlato Maietta all'inizio. Io ho frequentemente l'impressione che col termine naturale alcuni produttori cerchino di far passare il concetto di genuino, abusando un po' della percezione che ne hanno i consumatori. Genuinità è un concetto molto molto preciso e chiaro, che collima con quella che io chiamo invece salubrità. Per questo noi come azienda abbiamo dato via un progetto 4 anni fa che si occupa esclusivamente di salubrità in qualsiasi contesto produttivo, artigianale o meno che sia. Si chiama Free Wine, c'è un sito che lo descrive. Bene. Bene Marco, le devo togliere, abbiamo capito, Free Wine, quindi un sito che capiamo il concetto che lei ci ha cominciato ad esprimere. 30 secondi per Maule. Maule, abbiamo sentito da Gancia che dice che a giugno, se non viene trovato un accordo a livello europeo, il discorso di biologico salta. Cosa penso di questo? Sì. Sarebbe una grande vergogna, perché dovrebbero invece incentivare i produttori di qualsiasi prodotto alimentare producono che tolgono chimica dalla vigna. Cioè, se guardiamo le malattie che stanno arrivando, penso che sarebbe una grande vergogna se succede questo. Bene, grazie, io non ho più tempo, ringrazio Donato Lanati, ringrazio tutti gli intervenuti, voglio fare solamente una chiosa. Sento che molti dicono, beh, abbiamo solo 5 minuti, è evidente, questa è una trasmissione radiofonica di circa 50 minuti, ci sono anche gli interventi del pubblico, non è un convegno o un'assise scientifica, quindi è già importante fare dell'informazione, qui si cerca di fare della informazione su alcuni temi, è evidente che non sempre possono essere esaustivi e fino in fondo, ma probabilmente ci sono anche altre sedi per poi continuare questo dibattito e diciamo queste argomentazioni. Ringrazio tutti, un buon weekend da Davide Paolini.